Comunica causa. Lo stai passando già, la grande. Lo sto passando o no? Sì, sì, lo stai passando già, la grande, proprio passi qua con questa radio, eh. Io sono Licio Licio. Sì, ma no, non sei proprio. Cappo, cappo. Vabbè, ma guarda che ce la freghiamo. Cambiamo canale. No, no, no, puoi continuare perché con questa radio non stai bruciando proprio i passi sopra. Andave, andave. Cioè, questo qui non lo perdono. Oh, allora, allora caspita, perché non lo operi questo per calpestarlo bene? Lo superi alla grande. Mi ha detto che con questo mi senti più basso, boh. E mi ha detto che ti arrivavo due invece che tre qualcosa, boh. Ma che strano. Io già non lo so perché mi arrivi attenuato due, non so a che cosa, neanche cosa, però con questo apparato me lo superi alla grande, boh, e che cazzo ne so qui io. Forse, vabbè, ho capito io allora cos'è il problema. Ciao, Nannini. Ciao, Lucrezia. Ma tu? Oggi tu mani burro. Ma come le lunedì? Via. Vabbè, per tu con quella, capa. Sperando che tu mi ascolti nel tuo coordinato. Cala. Io ti ascolto. Però c'è il portantista qua, ascolto solo Gianni, se non metto la portante già ti ascolto. Comunque adesso me ne sbuccio un altro, io poi. Vabbè, se non spostati non c'è problema, raga. Perché mi vuole andare e noi ci spostiamo, raga. Grazie. Non ti voluta, poi ci guardiamo a nubi. Faccio se arriva oltre le 9. Ah, sono basso, si sente. Di tanto, boh, io non lo so che al gusto mi piglia. È una vita così, eh. Ma sono con lui, già, non vuoi qua. Che è già, avanti. Ma da QRM, sì, basso, ma, segnale 7, ma da QRM. Dov'è la portata? Luca, Luca, dimmi una cosa, chi è Giuseppe Tornado? Ma col portatile. Via, tu non lo senti? No, non lo sento. Giuseppe, ma sei a casa? Ma lei mi sente a me, Giuseppe? Guardate che tu hai 20. Mi aspetta, per Paolo magari sta mangiando e non sente. Per Paolo. 20. Beh. No, già ti sente, dai. Chiuso l'attacco al tuo, vai, vai là. 9, capito che fa, 9. 0695. Ma se parlo io mi sente, capito, si sposta. Infatti dovevamo andare 20 sotto per fare impazzire. Vabbè, lo sai. Già sento, dai. Cappa, cappa, ma c'era anche Giuseppe col portatile, l'ho compreso, capito? No, io non l'ho sentito Giuseppe, no, vabbè, ragazzi. Sì, lo sento basso, basso, basso, basso anch'io, figurati. Come è col portatile? Non lo so. Andiamo sul 20 sopra, là sopra, là. No, non sul 20, facciamo uno sopra. Uno sopra? Quindi 41. Cap. 41? Cap. 7. Ora, ora, ora, ci siete? Io ho la sintonia già, cazzo, qua ce l'ho nella testa memorizzata e basta. 10 ne può memorizzare? No, 30. 30? 440 a 100, 30 e 40, se tu cala 31 le puoi memorizzare, basta. Niente, come memorizzare solo quello dove andiamo noi. Perché? Capa capa. Io ho detto di venire al 41. E così è? Io ho detto, sono detto venire al 41, io. E lui cosa ha fatto? Metteva la portante, c'è uno stronzo, lo stronzo. Veloce, veloce, magari, perché l'è incazzato, così. È malato, cara, hai capito? Ma lui mi sento uguale, adesso sto parlando, ma lui mi sento uguale, mi lo sai. E lo so che ti senti, infatti lo fai impazzire, perché ti senti non può entrare, per quello ti dovete passare qua. Sei ammalato, mamma mia. Era fino all'esaurimento, cazzo, guarda, è pesante. Davvero, cazzo, Giuseppe, c'è il rumore, ma io ho questo piatto, Niente, va giù. Questo è per, ma immagina, se tu la va, con l'isolo passare alla grande, cioè proprio lo schiacciavo e passare sopra, ed è in chive, ma indi voi andare, e chi si indi voi andare? Luca gli mancava un'altra pena, un altro pochettino, glielo passava lo stesso. Io qua non posso aumentare, se do, non farai, troppo, è così. Cioè, potrà aumentare, ma pure la saturazione. Ma, perché quasi è un altro, non di cassare, un altro 4-5 che l'ha fatta. Via. Ma come mi dici? E Giuseppe! Non mi sono godrumito, è che... mi stavo sistemando. Copiato. Ho detto che non mi sono dormito, mi stavo sistemando. Con la paradan, cuffie, eccetera, eccetera. Eccetera. Avanti per fare. C'è stata una portata, avanti, che è? No, non lo vedo. L'ho finito di arancio, Trucchini? No, ne ho mangiato tre, dopo me ne mangio altre due, va. Beh, chi? Meglio la frutta va bene. No. Le mangia 4-5 kg, se cazzo, ma è poco troppo, Se la frutta fa bene, ma non per noi. Sì, io la mangio e come la vuoi. Buonasera. Frutta per pa. Fruttosio, non lo conto. Sì, vabbè, ma se non mangi altro, dai. Almeno quello ci metti in corpo. No, io ne mangio uno, prima ne mangiavo due, a pranzo adesso ne mangio uno solo. Vabbè, io ho mangiato tre arance, boh, adesso mangiare domani a pranzo. No, io oggi mi sono fatto un pasto completo, almeno la domenica, se no mangio mai nulla di sera. Sto sempre a stecchetto. No, c'è sta pranzo, ho mangiato anch'io, oggi ho mangiato la pasta al forno. Poi ho mangiato la rovata, poi ho mangiato il tiramisù, poi ho mangiato la crema come ti cavolina, poi mi sono mangiato qualcosa, mi sono... il budino pure. Sono a due. No, io ho mangiato solo 4 ravioli, il coniglio, e poi un'insalata... un po' di verdura cotta e un arancio, boh. Vabbè, oggi è la domenica, poi tutta la settimana, comunque diciamo che questa settimana passata ho fatto un pochettino cattivo, Ma io non sono già 2 o 3 settimane che sono tranquillo, anzi stavo anche cercando di smettere di fumare, ma... la tensione ti porta a farlo, Mamma mia, mi dovrei vedere stamattina tu. Nervoso, cazzo, inizio. Mamma mia, cazzo, ma tu. Hai visto quando sei arrivato che ora ero? Io. Io non ho preso mi così. Ma non siete scesi al bar? Sono anche sceso, ma con l'incazzo. nel capo e non è vicino al capo, è tutto quello che gli ho chiesto il tubo. Quello è meccanico, lì. Meccanico delle mio carta, mio padre. E lui ce l'aveva, ce l'aveva, non ce l'aveva a tasse dei tubi, dici così. E l'ho chiesto a lui, ne sono solito cazzo nervoso, credo che lo trovavo anche da qualche parte. E poi sono fermato già a prendere il caffè. Devi fidare a Usanna Luce. No, perché a un certo punto l'errore di centralina che mi dava, certi momenti sembra perché quando gli mettevi il tubicino cazzo si spegneva di mio, però senza il minimo, camminando su strada, la macchina andava anche bene. Poi cazzo cambiava, cazzo qua, non lo sappiamo anche più, ho detto cazzo ma non è possibile. E allora poi ci siamo decisi, quando ho pressionato il tubo, poi ci siamo decisi, abbiamo detto io stacchiamo il negativo e resettiamo la centralina e vediamo se la centralina resetta tutto e se torna tutto a posto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo staccato il negativo, l'abbiamo lasciata 6 minuti, perché secondo colore a volte varia da 6 a 20 minuti la deve lasciare per resettarsi, per scaricarsi tutto. Lasciata 6 minuti, mi ha attaccato il negativo, messo in moto, tutto a posto. Ragazzi, hai visto? Meno male ci avete pensato, se no domani io. E ha detto, ma non si presenta la centralina e mi ha detto perché? Se mi dava il coso, che come che fosse lo starter aperto. È strano, quando tu chiudi il passaggio deve spegnersi il motore, invece con quello staccato andava, e se non quello non andava, e fregite pazzita qua allora. Allora abbiamo deciso con l'altro, dai, stacchiamo il negativo e lasciamo la resettare, e sperarsi che l'errore sia nella centralina, e così già era. Infatti la centralina che stava dando i numeri, perché naturalmente quando si è crepato, deve essere che ha fatto andare il coso in tilt, perché lì c'è anche un coso, come si chiama, un coso che gli dà l'impulso, un sensore, capito, è un sensore quello, gli dà il sensore, deve essere che è rimasto incantato dalla centralina che non gli ha dato l'impulso. Però dai, adesso ci è andato tutto meno male. Vabbè, dai, tutto bene ciò che finisce bene, nulla. Beh, sono che non mandare io. Sì, allora, ci vado. No, vi dico lo stesso, ma comunque. Infatti io. Allora, ecco qua. Aspetta. Vaffanculo. Ecco qua. Avanti Giuseppe. Buonasera, buonasera. Pian pianino vi ho trovato, signori. Ben sentiti e ben trovati. K di positivo. K. E mai ogni tanto veniva a guardare a vedere se c'è. E non ti ho sentito. Mannaggia, mannaggia, io mi nascondevo dietro l'angolino. Ma è quelle portantista a noi, ci sente? Sì, quello di Pierpaolo, quello lì ci sente ma non riesce a entrare. Veramente? Beh. Pierpaolo, fermi. A me mi sente, di sicuro, mi sente anche abbastanza chiaro sul 41. E se lui si sposta... perché adesso io li sto facendo tutti i canali viola, li sto facendo, sono diventati tutti viola. C'è nessun minorenne all'ascolto? Ah, minorenne non ce ne sono. Dopo rum? Ah, negativo, Marcolino ancora sta mangiando, dai. Cappa, e tu Luca nella tua postazione, tutto ok? Sì. Ti ho chiamato, non so mai avevi sentito prima, perché io dovete andare al canale Alfa, non ho sentito, ho spatolato, sono al 20, Poi al 20 mi hanno riferito di salire qua. Fatto il chiamato. E K9, e dicevo solo se hai qualche minorenne lì all'ascolto, o se si può parlare liberamente. Vai, Marco, adesso è arrivato, ma c'ho le cuffie, va. Tappa di positivo, allora Pierpa, questa gliela dico io, poi magari se lui non mi sente, glielo puoi riferire anche tu. Magari col dito cosa per mettere la portante, vedi che se lo mette in culo ogni tanto, e poi se lo passa in bocca, e poi magari se ha un di tempo ci dice che sapore sente. Guarda, quello gli ho detto per una volta, anche più pesante, lo sa già lui. Quel dito lo operasse per metterselo nel culo, ma so che lui è sadico, altro che io, gli amigliani gli ha mai chiesto, altro che lì c'era diritto uno che dice che cosa che l'ha diritto io, a un certo punto si era buono sotterrato, ma io è sadico, merdoso, e non trovo un'altra definizione per questo qua. Fiamoso. C'è la nuvoletta quando passa lui. Seveso. La nube è così. Della serie intestato. Della serie cagarrogna. Della serie che si era lasciato il mio trovato, quando mi ha fatto le casa a paradigma della culo. Però cazzo io glielo faccio fare veramente però. Guarda, uno si dice, se fosse piago di culo. A me lo sai che ti ha colpito, ma lì tu non... è un odore indescrivibile, ma non lo so come valutarlo. Per esempio, se uno va a Calangoi, a Montezaio, è molto meglio. Allora, io dico la mia, aspettate. Allora, Giuseppe, inoltre tu dici di transizio un dito in culo, quando si sono fatta in faccia, una qualsiasi cosa, non cambia niente, anzi, forse è peggio. Hai ragione di lui, magari se se lo passa dietro le orecchie che il dito si profuma un pochino, perché sono rubiato di mesi nel nato, cazzo, è una cosa che non si crede. E lui lo sa quante volte mi è passato a fianco a me. Ve le avrete? Io sì. Caramba. Cazzo, non ho capito cosa va, stava, mi si chiude il programma. Andava, allora, comunque. A me mi hanno detto da poco, cioè gli hanno regalato da poco. Sì, mi hanno riferito, gli hanno regalato un bagno schiuma. E lui ha risposto, ah, me lo devo mettere prima che mi bagno o dopo la doccia? Ma stai dicendo, ma devo andare a spugnare il bordone? Mamma mia, bro. Guarda, non come. Non usiamo mezzi propri per spostarci, capito? Tu vai lì col furgone, vai a destinazione, poi vengono, ti prendono, poi alle due vedi il tuo mezzo a casa tua, prima delle due ti fanno uscire, perché se non avessi capitano che esci prima delle due ti succede qualcosa adesso al geometra. No, io avevo capito che è Gagarrogna che usava il furgone. Cazzo, non sa cambiare a piedi. Hai avuto il coraggio di assumerlo per 4 mesi, lo sapevi? Sbunduccio. Hai preso un po' con te col furgone? No, com'è no. No, assolutamente no. No, via. No, chi si è seduto, ma vabbè. Mamma mia. No, ma guarda che l'ho seduto solo in cabina per i primi giorni, la regione l'hanno messo in cassone. Se vuole pure un calcio mi va di fianco. No, tu eri al quadrello, non li faccio le marciapiedi via 4 novembre. Come la stessa dove sei tu, no? C'erano anche due ragazze. Cazzo, queste due ragazze poverine scappavano sempre da vicino a lui. Ma quelle gli hanno detto proprio, mi cazzo, ma perché non vai? Guarda che c'è la tambolana dell'acqua a piedi. Ho tirato il caso, se ci vogliamo noi, imbecille. Che paura, no? regalino. Un bel deodorante. Cappa, gli regaliamo arroganze. Guarda Giuseppe, che se tu gli regali solo il deodorante fai un danno indescrivibile, perché poi, a parte che il deodorante si rifiuta con lui, e poi fai un danno indescrivibile alla società, perché è più forte il suo odore, si confonde con quella, con quel profumo che gli regali, sono cavolacci amari. E canta di positivo, ma è quelle giubbotto in jeans, padre mia, se ne rubava. Allora, però sto scherzando, io la mamma mi aveva regalato questo deodorante, però io non li uso, neanche per camera, così non... deodorante da mettere sopra, non ti fa la doccia, sono coletti, io buon odoro e glielo consegnate. Ma ti sto dicendo, si rifiuta quel deodorante. Che fa? Quando si coca, mi sono giubbotto in ginza, se ne rubava lo manco. Veramente non so neanche se si coca, però siccome c'è sempre le volte ricavate. No, ma ti volevo dire di quest'estate, no, che era lì. Cazzo, ci aveva una maglietta verde, cioè il verde doveva, doveva essere stato sinceramente rosso. Il primo giorno che l'abbiamo visto è venuto lì, noi stava parlando anche con un altro paio di persone, ci aveva un pezzo di spaghetto attaccato a questa maglietta. Il secondo giorno ce l'aveva ancora, il terzo giorno ce l'aveva ancora, e tutti quanti ogni giorno, ma cosa hai mangiato oggi? E ci ha mangiato, no, mi è venuto a me, ma quello oggi ha mangiato qualche aggiunta, no, no, oggi non ha mangiato. Tutta l'ora che sono spaghetto, mi sembra che sono i lumi. E no, non ho mangiato di spaghetto, non ho mangiato. E allora c'è qualcuno che ha dato la prova, cosa, ma c'è la della maglietta che fai schifo. Beh, meno caro, cazzo, non si giamba manco la maglietta. Poi, per là, ha prevenuto, cazzo, al posto, cazzo, delle montagne che va in coro di su. Questa adesso, dopo aver mangiato i caracci, a me come fa schifo la gente, ma questa. Credo, cazzo, che sì, ha portato di non essere la gatta, cazzo, va, due per i giorni, su. Mamma mia, cara. Adesso, guarda, se avessi avuto una telecamera, adesso Pierpaolo ha detto dopo aver mangiato, e io mi sto guardando il sedere, scusate la sincerità, però sapete di parlare di quelle cose, Dio mio, caro. Ma io dico questo, no, io dico questo, se un domani mi dovesse succedere qualcosa, sai, qualcosa tipo ti fai male, oppure ti senti male da pronto soccorso, ma che cazzo guardi? Ma non è che arriviamo a battaglia o no? Già lo so come fanno con questa gente, come avevano fatto con l'angasco, come si chiamava, chi su, che dizia uno da solo ti vuole per fare 4-5 ossi alle ragazze. Poi ha visto questa qui con la Nuova Sardegna e le aveva detto quella Nuova Sardegna, questa è l'Unione Sardegna, si era toccato la sua. E quello lì l'hanno portato una volta perché l'hanno picchiato. Gli infermieri del riposante in mano l'hanno lavato con la pompa come si fa con i maiali, da un fianco che va via. Andiamo via con le profonde di fava, mamma mia. Stava nella strada, aveva la chitarra senza corde, faceva finta di suonare, faceva blam blam blam blam blam blam blam, si muoveva a suonare. Che fa? Per immagini con un gambo di rischio, avesse un bonino e non posso che lo deva, non tendi, no? Se il bonino rubato, avesse un balata che invece metta rassita proprio. Mamma mia. Non sono più essi, Giuseppe. Sì, che andranno caricando nel gassone, va, che andranno caricando l'ettame per i giardini, no? Non si sa se faria più fianco l'ettame o vedo. Ciao, a fare su questo. Dov'è che andrà a fare la visita già? Ti va passando un bottone, due bottoni, sai, ma ti passa... Cos'è che ti passa per mettere le ventose per farti l'elettrocardiogramma, no? Mi sono fatto un buttone indietro, a posto, in olio. questi qua, che è anche un po' burro, ecco, l'ha preso e ha mollato una bella scorreggia, e lui si è allontanato, e si è allontanato un cazzo di più poi come ha scorreggiato quell'anno. E qua, fate che ti si allontani, lì che si arrabbia, lì che si ammetta che ci fatti io. Quasi sarei voluto essere in quel momento lì. Dito, cazzo, ti si allontani le quando vai più fianco tu che il sottrodio. Non l'hanno assaltato. Ma in quel negozio che c'ha lì, all'angolo di via, Nera, ma cosa fa di lì? Cazzuraggio. Come? Chi c'è un cazzuraggio, esso che, buh. Che si rubavo, boh. Guarda, fianco, va, sento. Ma. Vediamo un po', va. Sì, ma lì c'è un po' importante. Sarà pure voi che non c'è voi, però è che c'è di più, fratello, c'è il capo del cazzo, ovvero. Chi so, è malato, malato mentale. Non ti credi che sia meglio, comunque. Ebbene, dallo stesso buco ne saranno usciti tutti e due, no? Oh, e parla, a me io dico una cosa, mi. Se pianti e tanti, se tanti di questi pianti tutti e due, guarda, bastava che non uscisse, se tu metti il palmo della mano, conti quattro dita più indietro, cazzo ne faceva due stronzi direttamente, allora sì, che potevano girare tranquilli, proprio con il piano della meta, quindi beh, sì, stronzo, hai ragione. Stavo pensando il prossimo sabato scelto in macchina. E sai vai tu. Gianni dottorino. Stai bene. Dottorino. E io. Ma non sarà solo la chiave di trovato la mia mio. Sai che ha detto che c'è troppo ecco? La chiave, siamo riusciti a cavarle in piedi di chi era con la chiave? No, negativo. Sì, vabbè. Già uscirà il padrone. Non sarà la sua, no, Gianni? No, non può essere la sua, che di macchina a me non si è mai abusato, ma si avrà abusato. Fattivi, mi sono già, mi sono marini, mamma mia, cara casa, bobo. Gianni, mettetelo come albero magic. No, preferisco la vaniglia. Lui invece è albero magic, albero merdic. Già, e magari ti vuoi i due cassetti appesi lì allo specchietto retrovisore della macchina. Arrogaus! Pegando passa quella via dove abita San Vito, lì lascia la scia, che si entra tutti i negozi, si vede... chi si deve un negozio, un kiwi, vola, si entra subito dritto, mamma mia, sta passando quello lì, più di una volta mi è successo. Adesso mi hai ricordato una cosa già. C'era qua una persona che stava pitturando nelle ringhiere, no? E di solito quando stai pitturando le ringhiere si sente la vernice, no? E questo qua non lo so se lo stava facendo per culo, no? Però ha fatto questo che sta pitturando. Cazzo mi ha fiato, cazzo. E là ce l'ha fatta e si ha copiato la vernice. No, vero che si è copiato le mega. E si è allontanato, io piano piano ha piato la pista e si è allontanato. E il dito si è girato e ha detto, ah, ecco che è cazzo, portavo via con la vernice. Ma che lo sto scherzando, le sono davvero già, Maia. Per carità. Guarda, mio cognato mi ha raccontato che quando era militare c'aveva un tipo di paese del nuorese così, che era in Camerone con loro. E fatto sta che la notte dice, c'era un odore di piedi insopportabile, dice se tu quelle calze le metti dritte, stava in piedi le rimanevano dritte, stagante Lavinie di Bidrighi e con l'incrostazione sotto. Figurati come riempiti, una notte ci siamo ribellati, rimettevamo sempre le carte e le scarpe fuori dalla finestra. Una notte ci siamo ribellati e abbiamo detto: ascolta, se non vai a lavarti prima di venire a letto ti buttiamo tutto quanto dalla finestra. Vabbè, lo mandano a lavarsi, dice che c'erano, perché le docce di Possa Luna c'erano le porte. Tu calcia la doccia, ragazzi, ha trovato a lui spostato, l'acqua scendendo da sola, e lui spostato per lo farsi bagnare, figura di due gatti puia. Gli dice: vabbè, rimedaglio una tarita rebutante che aveva vinto il premio mondiale. Fanno buoni la 55 ci aveva. Dice che portava un formaggio e una salsiccia che erano favolosi. Manco una canna l'aveva toccata ieri, così. Sai, formaggio e salsiccia. A carità, mamma mia. Tanto lì, se tu piagavi questa salsiccia e questo gaso e le cazzette di ghiaccio, stesso profumo Gianni, garantito al 100%. Gianni, via. Quando sono stato ricoverato anni fa, no? Hanno portato questo vecchietto aspetta, ha pigliato e ci ha portato la rotella, ci ha regato in bagno. Adesso, e io sono andato in quel momento in bagno, sono andato in bagno. Adesso tu dovevi vedere come ci aveva tipo la crosta nelle gambe. Una crosta, cazzo, guarda che era il descrivere, ci scorsi dove c'era la scabbia. Maria. Incrociato proprio, per carità. Se l'hanno entrato in bagno già, l'hanno messo dentro la vasca, l'hanno messo in ammollo, però sai che hanno dovuto prendere un tipo quel coso che, come si chiama, che mettono in bocca per la bassa lingua, e lo passavano nelle gambe, ne usciva tutta la crosta con quella lì, e ora scappano. Dopo l'arancia, guarda, ci voleva questa passata di coso, di... Ma potrei dire tipo torroncino questo. Avete parlato in due, vi siete tutti calpestati. Allora, sono io e Giuseppe Bravois, ho detto che se non l'avrei visto io con gli occhi miei, non avrei mai creduto una cosa del genere. Ma via, proprio la casa, come l'avevano messo in bagno che si è ammorbidito, che le togliava questa crosta con questo coso, per non fargli male, no? Ma era una cosa già, guarda, che faceva veramente schifo. Chi se da bambini non tratta di abbassa lingua, magari le buoni a moglie da bambini trattare di abbassa la lingua a cacchia di lua, ma via. No, già, sono quelli a bassa lingua, quelli in bustina, quelli non si è mai andato al medico, che ti controllo, sono quelli useggetta, non sono fatti di cose plastica, poi cosa, con chi se ne passava il latte, mancava di sacrucio. Ah, no, io conosco quelli in acciaio inox. No, quelli è useggetta, non li ha mai visti, con quello lì si cascava, soprattutto nelle gambe, e passava lì si cavava tutta la crocca. Anche te l'hanno lavato con una bomba, che... Adesso stanno usando con i vapor. No, ma ha fatto davanti a me, mi ha detto già una mano ce la dai. E sono entrato anche io in bagno, cazzo. Non si pulì a lavare in una maniera. E poi diceva, che coglione questo qua. Qua suida, per carità. E dopo... Una notte c'è cercato di discendere dal letto, è caduto e si è fatto un bel male, si è spaccato tutto. Abbiamo messo anche, prendete qui sopra la sponda per non scendere dal letto. Abbiamo messo qui, lui si era scavalcato ed è caduto, come ha fatto mio padre. Mio padre lo stesso non sopportava che andassero gli infermieri a, a farli, a mettere i pannolini, queste cose lì, era abituato ad andare da solo in bagno, ha cercato di scavalcare quell'affare, ma aveva 96 anni ed è caduto e si è spaccato l'arcata supracciliare. Lo prende adesso? Ah, non sto parlando di Giuseppe, non c'è più. Sì, sono qua Pierpa. Io stavo aspettando che riprendesse qualcuno perché avevo paura che se schiacciavo la portante e ci avremmo di lavoro. Buongiorno Antoine, ben sentito e cordialità come sempre, KK. Buonasera, cordialità anche a voi. KK, io adesso devo andare a mangiarmi quel budino, però ti vedi tra una crostata e un'altra, adesso non so se andare a gustarlo. Giuseppe? Sì, avanti Vera, avanti. Cos'hai detto, budino? KK di positivo, tre caramelli. Sei pronto? Buono, fatto all'antica, con gli stampi, quelli grandi che hanno il toro centrale, e esclusivamente in alluminio lo stampo, in maniera che sia perfetto. Guarda, è un amore, se tu lo vedi, è un amore col budino. Guarda, questo non ha lo stampo in alluminio, ma ti assicuro che è budino, te lo stanno portando. Kappa di positivo, io chiedo 5 minuti di bianco perché mezzo chilo me lo sparo subito, taglio una bella fettona e di quelli grandi lì, quelli con tutto in mezzo, quelli che ci vuole il piatto alla portata per farcelo stare. Io non la posso mangiare. Che cosa? Non puoi mangiarlo? Comunque mia moglie mi ha comprato i croissant senza zucchero. Io invece adesso questo me lo gusto bene. Mia moglie mi sta picchiando qua, Ti vuole fare fuori per ricassare l'assicurazione. Mi si accontenti. Ah, dice che si vuole. Ti vedi che gozo e ti rimane a me che si assicura a Dio. Chi mi vuole attribuire subito? Non avevi pensato, le donne sono diaboliche. Adesso provo a dirlo, se mi vuole veramente bene oppure se mi vuole morto subito. Si occupa la base. Infatti non conviene mai a fare l'assicurazione alle donne. Di quelle a usufrutto conviene sempre fare nominativo e basta. Comunque non me lo raccomandate a voi. E mamma erano i muri per fa, non si sa mai che ti metti a vino e la puoi fare cosa di fare di mangiare per pulito. Vabbè, io quando posso già il fitto, stamattina ero morto, sono passato vicino a Lella, la pasticceria, mi è venuta la voglia di comprare pasta, ma una voglia tremenda, e tocca un bel cannoncino, una bella ciabatta, una bella frittellona piena di crema, perché le fanno tutto, che ti ne fa, tutti li basti la crema, la cantoni buone. Buona crema pasticcera, buona. Poi io ho detto, ma si va bene a luce, che a me lo fa arrivare, poi mi intendo male. Aspetta che sto bene adesso. Sono venuta a paura. Prova a chiedere a Gianni, ad Antonio, dove le fanno buone le pasta, il paese dove le fanno buone. Perché se sei le fanno buone? No, ma lì è qualcosa di particolare proprio. La Santa Maria di Ruginas lì, sono buone davvero. Pasta e dolci. Va bene, la prossima volta quando andate me ne portate una a gustare a vedere come. I cani fanno certe paste che sono altri poi di quelle sasse, loro quattro capace vanno, ma fanno quelle frittelle che piacciono a tempi. Ah, ma che se bomba, che si quella crema. Ehi, quelle con la crema al cioccolato dentro, buia! Ma con la crema pasticcera mi piacciono di più. Quando sono andato a Roma sono sceso al bar, ero in albergo, no? Sono sceso giù al bar e ho visto che le pasta che piaceva a me non c'erano, allora sono uscito fuori, sono andato in un bar che c'era lì vicino, stavo a fare un cappuccino e mi dà anche due frittelle e tre me ne rivolge che devo portare su un albergo a mia moglie e ai bambini. Cosa sono queste frittelle? Quelle lì? Ah, erano bombe! Le chiamano bombe lì, In effetti non sono frittelle, comunque, già, Sì, sono frittelle con la crema. Se è quello. Vabbè, ma le frittelle per loro sono un'altra cosa. Era bombe, poi c'erano altre paste che c'erano nomi strani, boh. Io le indicavo col dito, mi hai dato di quello, di quello. Sembravo un bambino. Dico, vabbè, ma qui non me la metto il nome. No, io già li so, già le conosco. Qua, però là le chiamavano con nomi diversi, come Erbomba. Io non sapevo se si chiamava Erbomba. Ma io già lo sapevo, La chiamavano comunque, per esempio, diplomatici, la ciabatta, e allora il bignetto, ci sono anche le sue. Fa capo. Ma no, io già, quelle qui già, le comuni le conosco tutte, le creme bruciate, tutte quelle lì, le conosco tutte le paste. Perché per mio malgrado sono un po' ingordo. Poi se sono molto sofisticato non me la ricordo, ma basta farsi capire già il bagliarini che già usare. Eccomi qua. Guardate, mi ha dato di queste, sì Giuseppe, va bene, abbiamo sentito che si è arrivato. Se tu le indichi, mi fai vedere quelle ti vanno, te le metto, non c'è problema. L'altro giorno sono andato e devo comprare, mi ha mandato a comprare dei dolci o delle paste da portare a casa di questa amica di Manuela che l'aveva invitata a pranzo. Niente, le ho comprato queste paste e poi gli ho chiesto se mi davano una frittella a me e mi ha detto che non ne aveva e se mi sono guardato quella gana di... e una volta che ho preso per caso me le sono mangiate tutti in cammino. Ci credi, mi è venuta, ne ho mangiato una, ne ho gustato una, mi è venuta proprio una fame nervosa, proprio di sbranarmele tutte, mi mangiate in fretta e fretta per sanguglione. Buono Giuseppe! Ottimo e abbondante, se devo essere sincero. Adesso mi sto sparando perché negare l'evidenza non mi piace, è giusto che si dica la verità. Mi sto sparando se frullini alla panna con la Nutella di colore sopra, ce l'ho qua sulla scrivania. E niente, speriamo che non mi accorgi, sono un pochino asciuttelli, però ho la tappa dell'acqua qui, dai. Tu prendi qualcosa da bere? No, io gli accendevo a colazione. Li ho usati stamattina per colazione uno e andava bene così, là. Quello lì era il cioccolato. E sono buoni però. Sono... si fanno mangiare del pa. No, no. Meglio un bel pochino a quest'ora. Io ho già mangiato e Giuseppe a posto così. Cappa nel positivo, anche io ho cane caldo, mi sono mangiato, anche non so se erano, quanti erano, 6-8 ravioli, ok, sì, la frittatina di buonanotte, la frittatina di asparagi e il budino, non c'è in fondo. Adesso due di questi aggeggini qua, fullini preparati con la Nutella, con la, il colore, no? È bianca e nera, ma qualcuno se si pongo lì, è giusto per passare il tempo. Allora, crema alba. Cappa. Io la preferisco proprio alla Nutella vera e propria, e questa anch'io la preferisco così. Un cremalba non mi piace troppo dolce. È migliore la Nutella, più buona, mezzo al panino. Sai che c'è una commessa da noi che si era mezzo drogata con la Nutella, che se faceva cucchiai di notte, si prendeva quel vaso grande che mi danno ai bar, ai ristoranti, no? Quando fanno qualche tipo, come si chiama? Bah, non mi vengono, là, tipo piadine così con la, col cioccolato. Il cacao, ha detto la Nutella è fatta dal cacao, anche se lo dicono noccioli, tutte quelle cose, sempre cacao. Il cacao porta la dipendenza, è come la sigaretta. Pagato. Praticamente sì. Al cacao, e lui dice che se si svegliava di notte non ne trovava, piangeva, proprio era presa male. Lì. Non è magro più. Dipendenza. Il cacao porta dipendenza, Pierba. Ma vero. Ma come dipendenza? Cioè se uno si mangia un barattolo di cosa, fa anche male. Però attenzione, non confondiamo le cose, è come quello che inizia a bere, e pian pianino, no, non è che uno si mangia un barattolo di Nutella e lì già succede tutto il patatrac, e viene avanti la cosa pian pianino, no? E, diciamo, è tipo una scala gerarchica, e fatta gradini questa cosa qui, tu prendi gli alcolisti, iniziano che non sanno bere, non hanno mai bevuto in vita loro, bevono il primo bicchiere, arrivano a casa e sono colpi perché non sanno manco che cosa vuol dire bere, perché magari trovi anche quello mezzo attemio che non ha mai bevuto, poi pian pianino gli piace e lì si prendono la dipendenza. Così funziona anche per il cacao, tranquillo e anche documentato. Cazzo addirittura, proprio io ho il cacao, io cosa mangio? Il cacao non ha... No, addirittura che facessi dipendenza, non l'ho mai sentito. Cappa di positivo. Non so se il doppio rum ha mai letto, sentito che cosa può portare il cacao, però funziona così. Tipo la sigaretta, vai, tipo il tabagismo, e poi c'è anche lui di mezzo, il cacaus, meravigliaus. Sì, in effetti è così, mi hanno informato dopo che mi aveva raccontato questo particolare, c'è una commessa da noi che si comprava di quei barattoli enormi di Nutella, per intenderci quelli da chilo e mezzo. E praticamente gli ho detto, ma che cavolo ne fai tutta questa Nutella? E Gianni mio dice, non me lo dire così, io me la mangio a cucchiai la Nutella, mi piace troppo. Ma ti fa male così? Tu pensa che una notte mi sono stata per mangiare, era finita, ho attaccato a piangere come una bambina, da lì mi è venuto il corso di informarmi, no? E avevo visto anch'io, avevo letto questa roba qua. Ma anche il caffè dipendente? Il caffè non te lo so dire per fa, il caffè non ho mai preso la briga di controllare. Però ti porta sulla pressione il caffè, quello sì, fa male se ne bevi troppo. Sul caffè, non sono documentato nemmeno io, però penso che non porti quel coso lì, però il cacao è come una persona che magari, scusate, io mi posso immedesimare anche in questa ragazza qua, no? Presa, che ne so, dal coso del cacao. È come magari un fumatore che si alza la notte col coso della sigaretta, convinto di avere ancora una sigaretta nel pacchetto, e in quel momento il fisico glielo sta richiedendo, no? A tutti i costi deve fumare la sigaretta e si accorge che il pacchetto è vuoto. Perché io... Il caffè ne bevo, come puro, e certe volte ne ho proprio il bisogno. Ormai il caffè non porta dipendenza. Io mi ero documentato su alcune cose sulla storia del caffè. e tramite una trasmissione che avevo sentito alla televisione mi avevo un attimino appassionato, perché anch'io sono amante del cacao e attenzione, io non bevo caffè, però le poche volte che la mattina faccio un latte metto uno o i due cucchiaini di cacao amaro nel latte, attenzione. Scoprendo allora devo attrezzarsi il pantalone. E beh, ci mancherebbe paga la bolla, te lo dico io come fare. Ecco, papà, adesso vediamo un po', questo tipo qua, se riusciamo a contattarlo, per fatto, infatti ci parlo, e niente, vediamo un po', se c'è l'apparecchiatura ci parlo e vediamo un pochino, se riesci a dirmi da dove parte il segnale, poi niente, vediamo un po' da parte per fatto. No, ho scherzato, stai quel, con quella strumentazione lì, riescono anche a proprio a stabilire il punto esatto dove esce. Da dove esce non si può fare, poi è tutti le altre cose che fa il pianto, ma è che non riesce a scuolare il coso, con l'aglio cognometro riescono a prenderlo. Io qua il mio consiglio è quello, perché riesce a risolverla sola, perché lo metti alle strette, una volta che l'hai beccato lo metti alle strette, o paghi, adesso ti paghi il costo di questa roba qua, o se no lo denunci, metti l'avvocato e ti fai pagare la fatturina con gli interessi di quello che hai speso. E cappa, e su quello siamo d'accordo, però bisogna trovare anche le persone adatte, la persona adatta che possa fare queste cose qui per bamba. Ci sono Giuseppe, ci sono quelli che addirittura guarda che sono autorizzate, sono privati autorizzati, che quelli ti rilasciano per la denuncia, ti rilasciano tanto anche di dichiarazione, dichiarazione fiscale poi, sono fiscali quelli, ti rilasciano la dichiarazione fiscale dove hanno trovato questo soggetto che gli mandava questi segnali qua. Ti assicuro che ci sono proprio questi specializzati che lo fanno e non sono neanche così altissimi, molto meno di quello che ti ho detto, e vabbè, dipende da quante postazioni fanno, però se lo beccano vai tranquillo che quello lì ti vale come quello che ti fanno loro, Vediamo un pochino adesso, dai. Devo valutare un pochino le cose in realtà, perché ti ripeto, se continua io mi muovo. Tu lancia prima volontariamente gli appelli, se qualcuno che vuole scherzare adesso ha scherzato con questo segnale che mando, se ha scherzato vabbè tutto a posto, lo scherzo ti è riuscito e adesso sarebbe ora di smetterlo, altrimenti provvedi così e vedrai che puoi smettere tutto. Vediamo un pochino, dai, se fa prima di smetterla o se sono io a buttargli giù le antenne, non ci sta problema, dai, per quello magari prima faccio prima io a buttargli giù le pietà e poi vediamo se il segnale passa ancora. In una maniera o nell'altra forzata, o una maniera forzata, o con le maniere buone, bisogna farlo smettere. A un certo punto, se uno fa così e fa lo stronzo, bisogna far vivo. Io li avrei fatti in quella maniera là, anche per il gusto di farlo pagare, capito? Perché quando quei tecnici rilasciano una cosa fiscale, la devi pagare, lo sai, se no sono cavoli suoi. E lo so Pierpa. Vediamo un po', io mi conosco troppo bene, farmi un ragionamento tutto mio a mente fresca proprio, e dopodiché una volta che io parto decido una cosa e quella è quella è. Infatti. E anche perché, ti ripeto, mi dà fastidio o non mi dà fastidio, però allo stesso tempo mi dà molto fastidio che mi si venga a rompere le balle qui a casa. Solo quello, poi se l'ha fatto sentirlo in macchina, sentirlo quando sono qui su Sassari, sulla barra pesante, non è che mi interessasse più di tanto, mi hai capito? Perché può essere qualcosa che c'è nell'aria, ma una cosa puntata proprio su Sassari. Aspetta un attimo che rientra la Veronica, cosa c'è? Gianni! Ecco qua, come per magia è riapparsa Veronica, il fantasma della notte di Dio Tiziano Vecellio. Ciao Veronica! No! Come no? Ah, vita, il cotton bruto da Arianna, e ce l'ho seduto, ti dico, ce l'ho seduto a dimetti a ridere. Ho preso tipo l'eco. Ma fa che ce l'hanno questi tutti? Vabbè, che vuoi dire di tradurre? Sento, prego, prego, Gio, da questa parte Alex che fa entrata. Che vorrebbe di entrare Giuseppe? Non lo so come è. Che vorrebbe se mi intendo un me. Pucci, mamma mia. Ho sentito, Alessandro, tu sei? Sono io. Ma qualcuno mi può vendere la portante quando va lì tu? Chi è, chi è? No, forse non ti hanno sentito, Alessandro. Ciao, buonasera. Ciao, come va? Tutto Roger? Ho sentito roba di incazzatura da qualcuno come non acceso. Cosa sta succedendo? Cappa. No, niente, c'è sempre qualcuno che vuole rompere le scatole. Niente di strano, tipo sempre la solita cosa, dai. Non so se ti... Giuseppe, lo senti Alessandro? Cappa di positivo, lo sento bello, forte e chiaro. Buonasera Alessandro, ben sentito e cordialità da parte di Giuseppe. Cappa. Ma cappa dai, un saluto a tutti, chi c'è frequenza, mi sa che ho sentito anche a Luca, vabbè, a voi tre adesso per ora, non so chi ci sia dopo, va bene dai, già siamo qua in ascolto, via. Ma ciao adesso. Nostalgia. nostalgia del passato. Nostalgia di un passato. Dove la mamma mia ho lasciato. Basta Gai, basta Gai. C'era Alex che stava facendo qualcosa. Avanti Alex. Ti stavo dicendo solo questo. La gente così basta non parlarle. E così impara. Risparmi. E Tomacco impara più i sensi. Che ha mai compreso già. No, ma questo rumore qua Giuseppe l'ha captato da un paio di giorni. E va a finire che ci piace chi lo manda. Già ho capito. Rumore di che cosa, scusate, Giuseppe? Come non lo sento? Allora, io un baracchino non sento, ma ogni tanto faccio anche a Gianni. Ricordo che avevo fatto sentire una volta. Un rumore con tutti i canali. Era un disturbo, se qualche macchinario. Giuseppe lo sente tutte le sere, capito? Poi la domenica mattina, sabato mattina. Mi pare un po' che stia esagerando, adesso ci ha speso un bel di soldi, quello lì, fa pulirsi tutto canto. E c'è sempre questo rumore. Oh Luca! Giuseppe! Tipo come una direttiva mi, se proprio la vogliamo dire chiara e tonda, però sai, lo scherzo è bello quando dura poco, adesso vediamo chi si diverte di più. Da domani c'è gente che si sta avanti, da stasera c'è gente che si sta già muovendo, dopodiché io qui sono a posto, vediamo un pochino se lui ha il coso di continuare, ben venga, anzi io voglio che continui. Direttiva. Che diceva la direttiva? Direttiva. Ma tu dici che è un rumore da... cioè proviene da una... perdonami, da una station, da una stazione, fissa? È probabile, lui. Comunque, proprio sul più bello non voglio che mi molli adesso questo disturbo, perché ho movimentato un pochino di gente e non voglio che mi molli proprio sul bello, sul più bello, mi hai capito? Perché tirandolo fuori dalle orecchie voglio che lo tirino fuori, perché c'è gente che ha strumentazione per controllargli anche quanta polvere ha sull'apparecchiatura questa gente qui. Io non sento niente. Non posso, guarda, credimi, io sono rinato, questo apparecchio, sono rinato, colpi non sento più, veramente guarda, a parte vabbè i colpi, rumori sotto a fondo, qualche cosa così. No, assolutamente va. Se chi prende questo tipo di apparecchio, guarda, non sbaglia. Altro che Maracchini. Certo, prendo un po' di spazio, ma comunque. Hai, diciamo, una cosa veramente tocca. Bene, bene, ok. Andare, avanti, Gianni. Io non l'ho mai provato, Giuseppe, la prima volta. Aspetta, la prima volta che ho avuto un tipo di apparecchio serio, ecco. Sentire, Giuseppe. Come che papà? Voglio risentire a Luca quel rumore, che non è solo a battere, non so cosa. È un rumore che gli mandano... certe ore del giorno, della notte anche. Ma Luca è una persona intelligente, già mi ha capito quello che gli voglio dire, perché se a Luca io da casa gli mando una direttiva sulla sua antenna, quello che ha 100 metri da casa non lo prende. Luca sa benissimo che non è sblattero. Adesso senti un pochino Luca che cosa ti manda Giuseppe. registrato? No, questo non l'ho registrato e ce l'hanno già in registrazione le persone competenti che devono controllare. Adesso l'hai sentito il segnale che mi entra a me dentro casa? Comunque, ascolta, come capire Giuseppe? Io la mia ignoranza, ma è trasmesso per via dell'aria così o è tramite una portante, non lo so, com'è? Oppure te lo senti con una frequenza magari, non lo so, una frequenza vicina dove ti trasmetti, non mi capire. Allora Luca, noi in linea d'aria quanto siamo da qui a casa tua? Un chilometro, no, neanche, non lo so. Non ho idea, 500 metri, Cappa, adesso hai detto la parola giusta, 500 metri, forse non ci sono, ma prendiamo buono 500 metri. Se io qui questo segnale lo prendo a fondo scala, ok? Fondo scala, mi ricordate bene quello che sto dicendo io, Luca, e tu non lo senti, che cosa vuol dire? Ma fondo scala, no, aspetta, non mi fa piede, ma in tutti i canali oppure un canale solo? Tutti i canali. Allora, Giuseppe, un rumore simile mi capita d'estate a me, non sempre. Penso anche il figlio. Fa così. Tutti i canali, tutti alti, bassi, medi, destra, sinistra. E poi non so cosa è. E anche forte. Inizia a salire da un piano. 7, 9, anche 9, 10 mi stava di segnale. A quello scala no, no. Però sento molto rumore come la chino. Adesso vediamo con questo quando ci sarà la propagazione. Io ho detto, vuol dire che l'ho fatto sentire. Dice, lui non sento niente lui. Ti ricordi Gianni? Dice il segnale più forte. Sì, io ho fatto sentire a Gianni. Infatti io ho detto, lui non sento niente. E vabbè, che sicuramente qualche macchinario, non lo so, non ho idea ora sia. Ma qualche macchinario che a orari ben prestabiliti la sera si mette in moto da solo e fa quello che vuole, dal lunedì ad esempio al venerdì e dalle 20 alle 21, il sabato, che ne so, delle volte partiva a una certa ora, ad esempio, prende stamattina, ha durato più di 2 ore e mezzo questo segnale qui. Ed è di domenica, non penso che nessuno lavori con nessun macchinario. Non sono valenti, Giuseppe, veramente, non so che dirti, veramente. Se vi rifatto male a qualcuno che manda queste cose qua, ma mi sembra un po' strano comunque, vedi un punto Giuseppe, sei grande vaccinato, paghi la tassa come tutti, vedi un po', anche di competenza non lo sanno loro cosa fare. È il K di positivo, già fatto da venerdì, adesso vediamo in settimana se questo segnale viene, io mi auguro che venga fuori, perché Malaschigiola sembra che lo sappia e stasera lo stavamo aspettando e non è venuto fuori niente, perché in genere veniva fuori dalle 8 alle 9 la sera questo segnale, e stasera come per magia niente, deve essere non ha avuto tempo questo qui, non lo so. Ciò è molto strano, Chiappa. avanti Mario che sei in parcheggio da un po'. Non fa niente, già mi sto ascoltando già. Giallo giallo, no, sono entrato solo per salutarvi io perché essendo basso sono più un disturbo che altro. Mario, qui sei sempre 9:30 e Radio 5, non sei basso. Ma mi ascolti tu, Luca. Poi qualche altro non mi sente. Stasera stavo provando a chiamare a Vela e mi diceva che non mi capiva ed era lì all'ippodromo. E niente. E c'è chi mi ascolta e c'è chi non mi ascolta, tutto qua. All'ippodromo. E quando gli si attacca da di parchetto? E ma io sono passato io, ma vuoi? Perché non ti ho risposto da Milano, non mi hai sentito? E ma mi hai detto che non ti arrivavo bene, che facevi fatica a tirarmi fuori. E beh, ma nel punto in cui stavo passando io, ti sento, ho detto, non è che... Ti ho detto, ti sento lo stesso, anche se sei in basso, però ti sento lo stesso. No, io credevo che non ci ti arrivava in mezzo al Quaremmo e qui, siccome questa qui è una cena di fortuna e ciccia, niente di cosa, capite? E a me a dare fastidio, no, non è che mi piace, ma mi piace quando la gente sente lo portante e subito mi sente. A me la gente che fa fatica ad ascoltarmi dà fastidio a me, magari a loro no, però a me mi dà fastidio. Ma a me non dà nessun fastidio, anche perché, diciamo, quando sono qua io ti ascolto uguale, quindi no, problema non c'è. Poi magari, cioè, Santiago non è come quello di prima, però ti ascolto in radio bene, quindi quando ti ascolto bene in radio va tutto bene. Poi io poco fa, sinceramente, non mi sono accorto se mi stanno chiamando, Perché sono fatto, poi c'è anche questo microfono che ogni tanto non esce, niente. Cappa di positivo. Comunque non ce ne sono problemi, riprendi Luca. Luca è sparito, riprendi tu Giuseppe. Cava, ma ditemi una cosa, fate silenzio un attimo, ma proprio 20 secondi, sentite. Ecco, avete sentito? No. Avete sentito Gianni Rosare? No, non ho sentito. Gianni, vieni fuori. Non fammi fare queste figure da bravo, che volevo farti fare il figurone e dire no, invece sono sveglio Giuseppe. Attento Gianni, guarda che ci sono due pedane d'acqua da spostare in magazzino. Sì, c'è ora che fa tutto Gianni. Buonasera a tutti. Buonasera a lì. Buonasera Natali, ben sentito e ben trovato. Io ho detto questo perché sentivo il microfono mio che mi vibrava in mano. Ho detto, ma cos'è questa cosa? E non mi sentiva il classico sciurrago. Ho detto, questo è Gianni. Alla faccia. Vabbè, io sto rientrando a casa. Salve, buonasera. C'era chi mi ha salutato. E il fatto è... Non riuscivo a trovarvi, stavo cercando sul 10 e sono dovuto andare un po' avanti e ho detto, ma boh, non venisci qui stasera. Tutti i birichini stasera, mi Natali, tutti sul 41 e non ne conto più a nessuno. Sì, già vi ho trovato sul 41 e fa. Cava. Avanti Mario. Io non c'è, è andato via. Mariebo, in esese? Io sono qua, cambio! Ma c'è, hai visto che c'è? Hai visto che c'è Mario? Forte chiasso come sempre Mario, con quell'antennino che mi sta spaccando tutto il perigioma dello smitter qui a casa. Esagerato! Ma guarda, non ci credo, manco se lo vedo. Perché con un attimino così è impossibile che ci arrivo così. Perché voi a me ne arrivate tutti tanti passi, ma non è dovuto a voi. È dovuto all'antenna che c'è poca ricezione. E come c'è poca ricezione c'è poca trasmissione pure. Appari positivo Mario, anche tu hai ragione. Dammi il tempo di andare a prendere il telefonino, poi ti faccio chiamata, parli e ti faccio una fotografia allo Twitter. Dammi proprio 2 minuti. La puoi arrivare Mario così, perché magari sei in linea con lui. È possibile che gli arrivi forte, hai capito? Guarda, io non sono in linea con Giuseppe. Io sono in linea, per essere in linea, sono in linea più con Doppio Rum, perché il Doppio Rum, io mi affaccio, guardo qualche annocchiale e vedo che è da sua, perché sono tra un palazzo e l'altro, hai capito? Io quando tolgo fuori la testa dal terrazzo, vedo la casa di Doppio Rum, mentre che lui è al Sacro Cuore, è all'altra parte. Per quello che non ci credo che gli arrivo così a bomba. E magari sto per sbarra, non lo so come. Sono strane. Tu ci vedo male dove sei? Non so che sono cose strane, ma sono cose vere. Perché io mi in linea posso essere in linea con Natalino anche. Che Natalino è suo a tutti. E bene o male dovrei essere in linea anche con lui. Pronti, prega. E domani sei su Sassari? Pari positivo. No, pari Roger, anch'io. Bene, allora ci sentiamo domani. Io sono sempre condannato. Lo so, infatti io quando rientro, il primo sentito è Vela c'è 6 su 5, K di positivo. Preso 5 tutto il giorno, K là io vi saluto perché adesso devo preparare alcune cose per domani, quindi me le faccio adesso, se no dopo faccio l'ora di notte. Quindi vi saluto tutti i circolari, così non mi dimentico nessuno, se no magari mi dimentico qualcuno. Saluto i circolari a tutti, buon proseguo di serata, buon trabacco per domani per chi lavora, per chi non lavora, buona giornata e ce la riascoltiamo tutta domani. Ciao, buonanotte a tutti. Sono rientrato da qui perché sono già arrivato a casa. Ciao Vela, buon proseguo di serata, buoni preparativi e buona giornata per domani, che appare positivo. Ciao Pepa, ci sentiamo domani, dai, e buon tutto e buon trabacco per domani, ciao ciao. Ciao. Sono tornato. Ma siete più o meno la pari come sta, vero? Sì, cazzo. Saluto, me ne vado a cenare e poi mi chiedo altro. sì, non avessi ancora il telefono. Strada. Ho capito, ciao. che io mi vado a cenare e poi mi corico. Ci sentiamo alle prossime. Io scappo, ciao a tutti, ciao a tutti, anche a quelli che ascoltano, quelli tipo me.